Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ci sono uomini abituati a stare nell'ombra. Uomini che scelgono di fare un lavoro dietro le quinte, che nessuno immagina. Uomini che non si godono mai i risultati di un successo che, per come potrebbe sembrare, è merito di qualcun altro. I politici affidano i loro discorsi a spin doctor, professionisti della comunicazione che hanno il compito di far risultare al meglio, agli occhi dei media e dei lettori, il candidato di cui si occupano. I comici vanno sul palco con testi scritti da autori che nessuno conosce, ma che sono determinanti nella carriera dell'attore con cui collaborano. E nel mondo letterario, la figura fondamentale è quella dell'editor, come Jacopo De Michelis, che il suo lavoro lo descrive così. Il ruolo principale dell'editor, secondo me, è quello della scelta, cioè decidere se un libro va pubblicato o no. Quella è, credo, la parte principale più difficile del lavoro dell'editor, decidere quali libri arriveranno al pubblico e quali no. L'editor in pratica corregge i testi che gli arrivano sulla scrivania e valuta se è il caso di stamparli. Non corregge i refusi, quello spetta al correttore di bozze che spulcia le pagine in modo minuzioso per trovare eventuali errori. Il lavoro dell'editor è più complesso perché prende in esame la totalità di un'opera, sia essa un racconto, un romanzo o una raccolta di poesie. Quella dell'editor è una professione interessante e di cui almeno in Italia non si parla quasi mai. Invece nel mondo anglosassone la figura ha una grandissima tradizione e non bisogna commettere l'errore di immaginarsi l'editor come un uomo chiuso nella sua stanzetta buia e polverosa a leggere manoscritti in totale solitudine. Al contrario, la vita dell'editor è eccitante, vorticosa, piena di incontri strabilianti. E cosa ancor più inimmaginabile, il potere dell'editor è immenso. Proprio come nel caso del nostro primo protagonista di oggi, Gordon Lish. Gordon Lish. Gordon Lish, classe 1934, nasce in un sobborgo dello stato di New York e fin da piccolo è uno studente modello. Quando gli amici lo chiamano per andare a giocare in strada, lui declina l'invito, a volte senza neanche parlare, con un cenno della testa. Si siede a gambe incrociate sul vialetto davanti a casa e legge di tutto, voracemente, come ricorda lui stesso. Prima ancora delle parole mi piaceva il libro come oggetto, la consistenza della copertina, l'odore delle pagine. Le scorrevo tra le dita e poi cominciavo a leggere. A volte prova a cimentarsi con la scrittura. Crea una trama, la mette nero su bianco sulla carta, cambia la punteggiatura con meticolosità. E alla fine, quando il racconto sembra completo, strappa i fogli e li butta via. Un gesto istintivo, dettato da una grande insicurezza che ripete ogni volta, senza mai rimpiangere di aver perso una bella storia. Con la letteratura, Lish ha questo rapporto intenso di amore e odio. Ne è attratto e al contempo respinto, perché è proprio la letteratura che lo mette di fronte alle sue grandi paure. Prima fra tutte, quella di non essere mai all'altezza. Si sente sempre sotto esame, vuole dimostrare continuamente di essere il migliore, il primo della classe. E in effetti lo è. Ottimi voti. Si diploma alla prestigiosa Phillips Academy, per poi laurearsi in inglese all'Università dell'Arizona, neanche a dirlo, con lode. Un successo via l'altro in campo scolastico, ma che a lui sembra non bastare mai, che non riesce a dargli la sicurezza che cerca. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once. And then it had to be with you. Everything happens to me. Studiare per Lish è la cosa più importante. Sente il bisogno di continuare la sua formazione e i numerosi traslochi nella sua vita sono sempre dettati dall'inizio di nuovi studi. È nel 1960, quando ha solo 26 anni, che si trasferisce in California con la moglie Loretta, conosciuta all'università, per specializzarsi alla San Francisco State University. ha una forma di bulimia nei confronti del sapere, una forma forse non del tutto sana. È alla continua ricerca di titoli, certificazioni, ha fame di tutto ciò che gli può dare una conferma sul piano istituzionale del suo valore come intellettuale e come uomo. Inizia a tenere corsi di scrittura e proprio lui, così insicuro delle sue capacità, ostenta sicurezza in modo quasi aggressivo per motivare i suoi allievi. Uno di loro ricorda perfettamente le sue lezioni e ne parla così. Teneva dei seminari lunghissimi, arrivava anche a 12 ore senza fare nemmeno una pausa. Se qualcuno si alzava, faceva una battuta per metterlo in imbarazzo, lo faceva apposta. Era coinvolgente, smanioso di trasmetterci quello che aveva imparato e continuava a ripetere qualcosa come dei mantra, tipo «Onora il tuo scopo», «L'unico premio per uno scrittore è la possibilità di scrivere la frase successiva» o «Dobbiamo sempre sentirci sulla soglia del nostro più grande inizio». Le lezioni di Lish nel corso degli anni si rivelano efficacissime. Si sparge la voce e c'è la fila per poter assistere agli insegnamenti di quell'uomo freddo, dal carattere ombroso e dalle frasi lapidarie. Molti dei suoi allievi trovano la loro strada e applicano le sue teorie per fare carriera. Scrittori, naturalmente, ma anche sceneggiatori, politici, saggisti, uomini d'affari. Sono lezioni di vita, oltre che di scrittura. Lezioni brutali e poco rassicuranti, forse, ma che spiegano come va il mondo. Lezioni molto diverse da quelle lezioni americane tenute da Calvino nel 1985 ad Harvard, che predicavano essenzialmente la leggerezza. Lish non è leggero. Non lo è nella vita e non lo è nel suo lavoro. Si prende sul serio, chiede tantissimo prima a se stesso e poi agli altri. Non si accontenta mai, non si dà tregua. E fonda una rivista letteraria interamente dedicata all'avanguardia che chiama The Chrysalis Review. D'altra parte, la letteratura americana è in grande fermento. Gli autori più trasgressivi, di nicchia, underground, stanno cominciando a farsi conoscere dal grande pubblico. J.D. Salinger, nel 1951, ha pubblicato Il giovane Holden, manifesto anticonformista di un'intera generazione. Mentre è del 1957 il pilastro della cultura beat, l'indimenticabile On the Road, sulla strada, di Jack Kerouac. Un libro che racconta di un viaggio di una coppia di amici, gli alter ego di Kerouac stesso e di Neil Cassady, spiantato ladruncolo che vorrebbe tanto fare lo scrittore. Un libro che lo stesso Lish, di solito avaro di complimenti, elogia così. Era il 57, l'ho letto e l'ho riletto, e non mi capita mai. Lo rileggo solo quando ne vale la pena. Pochi libri si meritano una rilettura. On the Road, per esempio. Questo sì che è un buon libro. La Beat Generation stravolge un modo di fare musica, di fare arte, di fare letteratura. Dopo Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso e gli altri, scrivere non sarà mai più lo stesso. Il beat ha dato via libera alla parola, al tormento interiore, al disagio di sentirsi ai margini. Il beat ha cambiato tutto e gli scrittori che verranno, soprattutto quelli americani, non potranno prescindere dal confrontarsi con questa grande rivoluzione che ha davvero cambiato il mondo, come non si stanca mai di ripetere Fernanda Pivano, la donna che con le sue grandi prefazioni e traduzioni ha portato il beat in Italia. Non hanno capito che loro hanno cambiato il mondo, non l'hanno soltanto sognato di cambiarlo. In America c'è appena stata una grandissima e impetuosa rivoluzione letteraria che ha dato il via a un'intera cultura, la cultura beat, che nella scrittura trova la sua più ampia valvola di sfogo. Gordon Lish, che è sempre il primo a tenere d'occhio quello che sta succedendo intorno a lui, ha fondato una rivista di critica letteraria, la Chrysalis Review. Ma dura poco, perché Lish sente il bisogno di spostarsi, naturalmente con tutta la famiglia, che nel frattempo si è allargata. Ad aspettarli c'è il sole della California, precisamente Burlingame, una cittadina piccola, ma in una posizione strategica. In pochi minuti si raggiunge la baia di San Francisco. Tutto intorno ci sono parchi e grandi campi da golf, il clima è perfetto. A raccontarlo è lo stesso Lish. Mi piaceva prendere la macchina e andare, al tramonto, quando la luce ti costringeva a mettere gli occhiali e per il caldo bisognava tenere il finestrino aperto. Gordon e sua moglie creano una nuova rivista, la Genesis West, che in breve tempo diventa il punto di riferimento per artisti e scrittori. Non che Liscia sia generoso nelle sue recensioni, al contrario. È una penna impietosa, in grado di stroncare con poche parole il risultato che un poeta ha prodotto in mesi di lavoro. È proverbiale la sintesi con cui decreta che un racconto è da buttare e leggendaria la sua durezza nel definire spazzatura un intero romanzo. Ci sono uomini grandi e grossi che sono scoppiati a piangere per la freddezza delle sue parole e autori che si sono convinti che fosse giusto smettere con la scrittura. Eppure tutti mandano i loro lavori a Lish, perché sanno che, carattere scorbutico a parte, è il più bravo. Vogliono che sia lui a leggere quello che gli hanno scritto, per aggiustarlo, sistemarlo, tagliare dove serve. Spesso è lo stesso Lish a suggerire come rimediare a errori strutturali o a far emergere il carattere di un personaggio che nella prima stesura rimaneva solo in superficie. È il ruolo dell'editor e Jacopo De Michelis, che lo fa di mestiere, ne parla così. Io credo che l'editor deve essere in qualche modo un avvocato del testo, che perora le ragioni e le cause del testo, in qualche caso anche contro la volontà dell'autore. La casa dei Lish è un grande punto di riferimento che accoglie i creativi e gli spiantati. E qualche volta le due cose coincidono, come nel caso di Neil Cassady, scrittore con cui Kerouac ha fatto il viaggio che gli ha ispirato sulla strada e che del libro, sotto il nome Dean Moriarty, è protagonista. Adesso Cassady sta facendo un altro viaggio, stavolta con Ken Casey, scrittore, e i suoi amici, i Merry Pranksters, e il giardino di Lish è una tappa obbligata. Il gruppo sta attraversando l'America a bordo di un classico pulmino giallo della scuola, ma che per l'occasione è stato dipinto di mille colori e ha preso il nome di Further, dove droga e alcol non mancano mai. Quello del Magic Bus è un percorso non solo fisico, fatto di chilometri macinati sulle mitiche route desolate degli Stati Uniti, ma è anche un percorso figurato, che traghetta due movimenti, dal beat alla cultura hippie. Lo stesso Casey è solito definirsi troppo giovane per essere un beat, ma troppo vecchio per essere un hippie. L'accampamento davanti a casa Lish dura diversi giorni, tra festini a base di droga e lunghe chiacchierate sulla letteratura e la vita. Per Lish sono momenti indimenticabili. Era un'occasione, una grande occasione. Sentivo che ero parte anch'io di qualcosa di grande. Quelle persone che a tutti sembravano strane, in realtà, con il loro viaggio, la loro musica, le loro storie fatte di parole nuove, stavano cambiando il mondo. Lish, come al solito, dà consigli, suggestioni, indirizza una visione. Nessuno sa farlo meglio di lui. È dotato di un sesto senso che gli fa capire esattamente se un testo funzionerà. E infatti con Casey non si sbaglia. Il suo romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, ispirato alla sua esperienza di cavia in uno studio sulle sostanze psicoattive finanziato dalla CIA, sarà un successo. Al punto che nel 1975 Milos Forman ne trae il grande film di cui è protagonista Jack Nicholson. Beh, ecco le carte, Regina Cheese, Asso di picca Tabor, un 10 a Billy e al cartaio un 3. Danni carta. Carta a me. Senti, carta... non te le posso dare le carte perché non tocca ancora a te. Capito? Le vedi queste persone? Queste sono vere. Queste sono persone vere. Che fai, Cheswick? Carta stai? Stanno collegando con lo Yankee Stadium. Passiamo quindi alle notizie sportive. Tra poco verrà disputato il primo incontro delle finali di baseball. Hai fatto 8:30, Cheswick. Carta table? Tu hai sballato, dammi qua. Sballa... Eh? Carta? A me. Fidi, insomma! Carta a me. Tocca a me, Tabor. No, che non tocca a te! La vita di Lish è divisa tra i corsi in università, la lettura di testi da recensire per la rivista e la pubblicazione di saggi. Non abbandona però la sua passione per la scrittura. Qualche volta la sera si mette sotto il portico davanti a casa e con una tazza di caffè davanti scrive tutta la notte. Piano piano si convince che anche lui può scrivere, non soltanto correggere quello che scrivono gli altri. E così, poco a poco, smette di buttare i suoi racconti. Li tiene ancora in un cassetto, ma adesso sente che forse potrà pubblicarli. Si aspetta, è solo per la sua solita ansia da prestazione, per la sua tendenza al perfezionismo, per la sua mania di tenere tutto sotto controllo. Intanto, più passa il tempo, più cresce il suo prestigio come editor. Tutti nell'ambiente sanno che ha un'innata capacità di giudizio che lo porta a fare sempre la scelta giusta, a sapere in anticipo su chiunque se un romanzo funzionerà oppure no. Non si tratta soltanto di gusto e nemmeno di ragioni tecniche, di schemi attraverso cui riesce a giudicare. No, il suo è più che altro un istinto. Un istinto così forte che perfino la rivista Esquire si accorge di lui. E nel 1969 lo chiama a far parte della sua illuminata squadra. Lish ci pensa un po', perché si tratta di un nuovo grande trasloco, stavolta dalla parte opposta degli Stati Uniti. Ma l'occasione è troppo importante, non può perderla. Giusto il tempo di organizzarsi e vola con la famiglia a New York. Esquire lo aspetta. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1969 e Gordon Lish, il più grande editor del periodo, in grado di decretare il successo o il fallimento di uno scrittore già dalla prima lettura, si è appena trasferito a New York per lavorare all'Esquire. Esquire è una rivista indirizzata almeno all'inizio a un pubblico prevalentemente maschile, ma che in poco tempo, grazie ai suoi articoli, interviste e approfondimenti, ha coinvolto anche quello femminile. Una delle sue caratteristiche principali è lo spirito ironico e irriverente, ma questa sua natura leggera non le impedisce di diventare un grande affresco sul mondo. Sono molti gli scrittori ospitati sulle pagine di Esquire, scrittori del calibro di Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck, Truman Capote. Gordon Lish è stato chiamato proprio per questo, per lanciare nuovi talenti. Passavo le giornate a leggere e venivo pagato benissimo. Per me non c'era lavoro migliore, me ne stavo alla mia scrivania con in mano una penna e decidevo cosa pubblicare. Certo, fa l'editor da molto tempo, ma all'Esquire è tutta un'altra cosa. Il suo ufficio si affaccia su New York e per vedere i grattacieli di Manhattan gli basta buttare lo sguardo verso la grande vetrata che va dal soffitto al pavimento. È rispettato da tutti, mitizzato quasi, ma anche temuto per i suoi modi sbrigativi che a volte a ragione passano per bruschi. In poco tempo tutti lo chiamano Captain Fiction, capitan narrativa. Sotto il suo implacabile giudizio passano decine di scrittori, qualcuno dal discreto talento, la maggior parte di infimo livello. Sono presuntuosi, mandano a Lish i loro scritti certi che a lui piaceranno, ma Lish non ha paura a consigliargli di cambiare mestiere. Finché un giorno gli capita in mano un racconto di un giovane autore che lo cattura. Si ricorda di averlo già sentito nominare, di averlo incontrato di persona quando stava in California ed era andato a una casa editrice per far stampare il suo saggio. L'uomo con cui aveva appuntamento era in ritardo. Lish si era messo a chiacchierare con questo giovane redattore con l'ambizione di fare lo scrittore e ora lui gli aveva mandato i suoi scritti. Il suo nome è Raymond Carver. Raymond Carver. Raymond Carver nasce a Clatskin, Oregon, nel 1938. Ma già 3 anni dopo, con lo scoppio della guerra, si trasferisce nello stato di Washington. La sua famiglia è povera, la mamma fa la cameriera e il papà l'affilatore di una segheria. E bisogna andare dove c'è lavoro. Non ci sono giochi per Raymond. È già tanto se si riesce a racimolare la cena. E c'è un solo passatempo che non costa. Lo sentiamo dalle parole di Ella, mamma di Carver. Ray ascoltava sempre suo padre che gli raccontava storie. Gli raccontava quello che viveva ogni giorno e Ray semplicemente ascoltava. L'immaginario di Raymond si nutre di storie operaie, famiglie in difficoltà, padri che come il suo si rifugiano nell'alcol per dimenticare la tristezza della quotidianità. La sua casa è solo un guscio, in gran parte è stata distrutta da un incendio e la strada che passa davanti non è neanche asfaltata. Il bagno è fuori, abbandonato, e i ragazzini del quartiere si divertono a portarlo via per poi lasciarlo sul ciglio della strada. Uno scherzo che ha il sapore amaro dell'umiliazione, ma che forgia il suo carattere, il suo bagaglio personale, come ricorda lui stesso. La vita e queste persone che mi stavano intorno mi hanno impressionato, mi hanno influenzato. Mi sono entrate dentro. e non potrò toglierle per sempre. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Qualche volta Raymond Carver riesce ad andare nella biblioteca del paese e si perde nella lettura di Tarzan, il suo personaggio preferito, uscito dalla penna di Edgar Rice Burroughs. La maggior parte del tempo però lavora. Deve farlo, è strettamente necessario per la sopravvivenza, dal momento che si è sposato e non ancora ventenne ha già due figli. Nel corso della sua vita fa di tutto. Lavora nella segheria come suo padre, fa il fattorino in una farmacia, l'operaio. Intanto coltiva il suo amore per la scrittura. E la moglie Marian a spingerlo a frequentare dei corsi perché si accorge che lui è felice solo quando scrive. E non è facile farlo in casa con due bambini piccoli e un padre alcolizzato e nevrotico. Mi piaceva andare a pescare. Lì potevo scrivere tranquillo le mie storie senza urla e strilli. La pesca è la seconda passione che mi ha trasmesso mio padre. La prima è l'alcol. Nella provincia americana, soprattutto se si è poveri, non c'è molto da fare. Si può percorrere chilometri di statale e incontrare solo tavole calde con i soliti due o tre camionisti di passaggio o i motel per gli incontri fugaci riconoscibili dalle insegne luminose intermittenti. I bar sono spesso dei rifugi e quando sei invaso dalla solitudine, il barista diventa improvvisamente il tuo migliore amico, un fratello a cui confessare tutti i tuoi segreti. Io bevevo. Bevevo ogni sera, appena possibile. Non mi serviva per scrivere, per tirar fuori le mie storie, quelle le avevo già dentro. Non c'è legame tra l'alcol e le mie storie. All'inizio mi piaceva il gusto, annusavo il whisky e sapevo riconoscere se era buono, ma poi non lo sentivo più. Il sapore non contava, contava solo bere. Il tormento di vivere affina ogni giorno la sua penna. Incontra docenti e letterati, riesce addirittura a laurearsi. Scrive. Qualche sua storia finisce su piccoli giornali, ma nulla di più. La sua angoscia, determinata da un profondo senso di solitudine, non si percepisce da fuori perché Raymond ha gli occhi che brillano. È curioso, attivo, divertente. Crede, nonostante tutto, nel genere umano e nella speranza che arriva dalle gioie quotidiane. Soprattutto ha la capacità di meravigliarsi delle piccole cose, una capacità che lo accomuna a un altro grande cantore della solitudine americana, ma in questo caso messa in scena attraverso la pittura, Edward Hopper. Aldo Nove, scrittore italiano della generazione nota come dei cannibali, ha immaginato un rapporto virtuale tra i due, Carver e Hopper. È dalla vita reale che si raccolgono le storie e le storie più incredibili sono quelle quotidiane. Hopper, sono d'accordo con te, è quasi scandaloso perché è in grado di accorgersene. Quanta fantasia c'è nel reale, nella vita di tutti i giorni, si tratta di ritrarla nel modo giusto, di darle forma o parola, ombra o silenzio, luce che immobilizza o buio che sospende. Carver racconta quello che conosce, storie di povera gente, storie di normalità, storie di qualcuno che però possono essere le storie di tutti. Proprio per questo vuole che le persone le leggano, perché ne traggano il sollievo dato dalla consapevolezza di non essere soli. È deciso e per niente arrendevole. Così un giorno invia il suo racconto a Gordon Lish, l'editor dal potere incontrastato, sperando che ne salti fuori qualcosa di buono. Quando Lish legge Vicini, ne è davvero colpito. Stranamente, perché lui non è abituato a farlo, rilegge una seconda volta, quasi per sincerarsi di averci visto giusto, di aver capito a ragione che Raymond Carver è un talento. Il giorno dopo lo chiama, vuole vederlo in redazione all'Esquire. E quando Carver sente la notizia, non crede alle sue orecchie. Avevo molte speranze. Dicevo, se lavoro bene e mi faccio consigliare bene, posso farcela. Può succedere davvero qualcosa. Posso diventare davvero uno scrittore. Carver e Lish chiacchierano per ore. Lish vuole sapere tutto di questo ragazzo così diverso da lui, ma sul quale si sente di scommettere. E infatti pubblica sull'Esquire il suo racconto, poi un altro e poi un altro ancora. Tra i due inizia una fitta corrispondenza. Carver manda a Lish i suoi manoscritti e Lish li corregge riga per riga, parola per parola. Ogni racconto è una cartolina fredda e lucida di un'America sofferente. Lish gli suggerisce semplicemente che direzione prendere, come dare forza alla struttura, come rimediare a un finale mal riuscito. Ogni modifica per Carver è un colpo al cuore. È legato alle sue storie e non vorrebbe che venissero toccate. Ma si adegua. Sa quanto è importante l'apporto di Lish. È grazie a lui che sta diventando un grande scrittore. Era strano. Gordon tagliava in modo pesante. Cambiava molto di quello che avevo scritto. Ma lo consideravo normale. È grazie a lui se ho cominciato a vivere solo di scrittura. Finalmente Carver viene conosciuto dal grande pubblico. Prima solo dai lettori dell'Esquire e poi grazie al tam-tam mediatico da tutti. Riceve una borsa di studio, inizia a insegnare scrittura creativa all'università e in breve tempo fioccano i premi. Non è più uno squattrinato operaio di provincia con l'ambizione di fare lo scrittore. Adesso è un grande scrittore americano a tutti gli effetti. Gli propongono di scrivere su riviste prestigiose. C'è una gara per pubblicare le sue poesie. È finito il tempo delle preoccupazioni economiche. Carver riesce ad acquistare la sua prima casa, un vero traguardo per lui abituato a vivere nella miseria. Il merito è senza dubbio di Lish, che ha creduto in lui e nel suo potenziale fin dal primo momento. Lish si è fatto carico di Carver, l'ha aiutato e l'ha spinto come ha potuto fino a fargli ottenere enorme successo. Potrebbe sembrare che la storia finisca qui, con il lancio di un grande fenomeno letterario da parte di un editore illuminato. Ma invece il rapporto tra Lish e Carver è davvero molto più complicato. Tra poco, a Destini Incrociati. I've been walking down the road. What it means, I don't know. I've been walking down the highway with the bad fruit flying by me. I'm an ordinary man with a time bomb in my hand. Destini Incrociati. A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni 70 e Gordon Lish, grande editor per la prestigiosa rivista Esquire, ha appena pubblicato i racconti di un brillante scrittore americano, Raymond Carver. Le storie di Carver parlano di vita, della vita che è fatta di quelle cose piccole che succedono tutti i giorni. Il poliedrico Giuseppe Cederna, attore, scrittore e alpinista italiano, ne è un accanito lettore. E la cosa meravigliosa e straordinaria dei racconti di Carver è che ci siamo noi nei racconti di Carver. C'è la nostra storia, c'è la nostra gioia di vivere, la nostra solitudine, la nostra voglia di innamorarci, la nostra paura della morte, la nostra felicità per un incontro inatteso. Carver scrive e si fa carico di portare sulle sue pagine argomenti universali attraverso la normalità. Questo è il grande dono che ha. Il dono che è piaciuto così tanto a Lish quando ha deciso di pubblicarlo per la prima volta. Lish l'ha indirizzato, aiutato, qualche volta ha messo mano alle sue trame. Una cosa normale per un editor, ma che adesso, lentamente, sta prendendo una deriva allarmante. Lish diventa sempre più brutale. Ogni volta che riceve un testo da Carver, lo spolpa. Comincia con piccole modifiche, sistemazioni qua e là che non disturbano. Poi passa a eliminare intere righe e poi interi capoversi. Taglia con l'accetta e ogni volta Carver sente che è un'amputazione. Ma è legato a doppio filo, non può dire niente, perché deve tutto a Lish. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Mi ha dato i consigli giusti, mi ha guidato. Ero un giovane padre senza soldi. Devo completamente a lui la vita interessante che faccio. Lui mi ha permesso di dedicarmi alla letteratura, alla poesia. Lish sfoga su Carver un sadismo che non ha mai usato su nessun altro prima. E nel frattempo trova la forza di pubblicare finalmente i suoi libri. Forse teme il confronto, forse, come sempre, sospetta di non essere all'altezza. Sta di fatto che riduce a brandelli i racconti di Carver. Gli interni domestici dimessi, le piccole tragedie, le solitudini da sobborgo urbano, le incomprensioni e i tormenti, menage di coppia stanchi e la tristezza della monotonia affogata nell'alcol, l'America degli sconfitti. Quando riceve Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, una delle sue più famose raccolte di racconti, molti dei quali verranno usati da Altman per gli episodi di America Oggi, Lish cambia il finale a ben 10 storie su 13. Se Carver manda 6 cartelle di testo, l'equivalente di 6 pagine, Lish riduce il tutto a una riga. Carver soffre sempre di più e in una lettera a Lish lo implora di smettere. Ti devo tutto, ti devo anche la vita, ma ti prego di fare l'editore e non lo scrittore fantasma. Non sopporto più le tue amputazioni e i tuoi trapianti chirurgici. L'incrocio di destini tra Carver e Lish in America è da 20 anni un caso editoriale, difficile da risolvere se non confrontando i manoscritti con le pubblicazioni corrette. È quello che hanno fatto due studiosi della Hartford University, William Stahl e Maureen Carroll, e quello che ha rifatto a sua volta di persona lo scrittore italiano Alessandro Baricco. Nel 1999, con Carver morto da anni e Lish che non rilascia dichiarazioni in proposito, Baricco va a Bloomington, alla Lilly Library, e chiede del fondo Gordon Lish. Uno stagista gentile gli porta una grande scatola di cartone, una di quelle che si usano per i traslochi, piena di cartelline ordinate, ognuna delle quali contiene un racconto di Carver, il dattiloscritto originale con le correzioni di Gordon Lish. Il patto è di non usare biro e di tenere i gomiti sul tavolo. Richieste più che legittime. Baricco non crede ai suoi occhi. Prima e dopo l'intervento di Lish, ogni racconto è praticamente un altro racconto. Carver è famoso per liquidare una tragedia con due battute. Ma se questo è opera di Lish, che ne è della vera natura di Carver? Risponde così il critico Saverio Simonelli. Carver è uno scrittore che è stato definito minimalista, ma sicuramente per errore. Possiamo anzi dire che è un massimalista dal punto di vista dei contenuti. Il caso è un vero rompicapo. Dietro ai racconti di Carver, lapidari, impietosi, si celerebbe invece un altro respiro. Un soffio di vita con cui Carver chiudeva le sue storie, ma che veniva sempre tagliato da Lish. Forse lo sguardo di Carver non è freddo e distaccato. Forse proprio perché lui è l'uomo normale, può davvero parlare di normalità, come ripete Cederna. C'è la pietà, c'è qualcosa che succede, c'è il rendersi conto appunto dei propri limiti, delle proprie debolezze. È come se Lish avesse deciso con un'operazione netta di eliminare il più possibile la speranza, l'umanità. Carver è cinico, ma è come se nei finali tentasse sempre di riscattare la cattiveria e con lei tutti i cattivi. Nei suoi finali originali non c'è solo la tragedia che arriva dal nulla, c'è l'umanità. Crea il gelo e poi tenta di scaldarlo per dare sollievo a chi legge e prima ancora a se stesso. Ma Lish questo non glielo permette. Funziona il Carver tagliente, è nuovo sul mercato, è quello che vende. È la rivoluzione Carver, è quello che la gente vuole sentirsi raccontare. E così Lish non fa che eliminarne il calore. Baricco assicura che i manoscritti di Carver, prima che Lish ci mettesse il suo tocco, sono bellissimi. Diversi e bellissimi. E adesso, con nuove edizioni, possiamo leggerli anche noi. Difficile stabilire come sarebbe stato Carver senza Lish. Meglio, peggio, impossibile giudicare. Forse, semplicemente senza Lish, non ci sarebbe stato Carver. Always, and I want you to surrender. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.